4 mattino. Il centro di ieri scorso in piazza. Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no. Sì. Rumore con la bocca. Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si è messo a fare il rumore con la bocca? Non so, ma vi devo capire, maresciallo. È stata fatta una pernacchia. Con la bocca. A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro delle scorse. Vorrebbe ripetere per ora così si crea l'atmosfera? Senz'altro! Al genio militare, sì, del nostro Führer. La mitica pernacchia di Totò, ogni tanto dobbiamo metterla come un minimo garantito per tornare alla vita, al sorriso, alla rassegna stampa di oggi, che come sempre introduco con una copertina. Allora c'è questa foto, sono due signori, due bei signori. Uno, sono di Casal Monferrato, Luigi ha 75 anni, l'altra, Gabriella, ha 63. Io ne ho visti tanti di nonni che sono anche padri, magari per motivi drammatici, e ho visto com'è cambiato il tempo, la soglia della vita. Un nonno oggi è anche un po' un papà, soprattutto se è giovane, soprattutto se si sente forte. E allora loro, che erano diventati affidatari di una famiglia, ora vengono spogliati di un bambino che era stato dato a loro in adozione. Ieri, lo sto leggendo dal Corriere della Sera, è un po' il caso del giorno, pagina 16, il PG della Cassazione Francesca Ceriani ha chiesto che la bambina loro affidata torni a casa e lo ha fatto con questa raccomandazione: va restituita ai suoi genitori biologici. La Corte si è riunita per decidere e lo stesso avvocato della coppia, Adriana Boscagli, non si aspetta una pronuncia immediata. Vista la delicatezza della situazione, non ci aspettiamo una decisione prima di un mese o un mese e mezzo, ma i genitori attendono con fiducia e commozione la fine di un incubo. Sono 4 anni che non vedono più la figlia data in adozione a un'altra coppia perché loro erano ritenuti troppo anziani per lei. Oggi lui ha 75 anni, lei 63, e era accaduto tutto questo. Allora il problema è l'età, vero, ma è anche di chi sono i figli. E io vi devo dire una massima in questa ovviamente complicata vicenda, in questa incredibile vicenda di un figlio dato e tolto, che è parallela a quello del bambino di Martina e di Alex, la coppia dell'acido, che in questo caso viene affidato ai nonni. Il problema, secondo me, è che il principio di massima dovrebbe essere questo: quando una famiglia riceve un figlio in adozione e questo figlio fa un percorso molto importante dentro questa famiglia, la biologia non conta più, cioè conta chi cresce i figli. Quindi i tribunali devono prendersi la responsabilità delle decisioni che prendono. Se danno un affidamento così lungo, non devono poi spezzare quella continuità di educazione che si è creata. Dopodiché forse a Casal Monferrato, visto che la prescrizione è anche che ci sia una collaborazione fra la coppia adottiva e quella biologica, forse lì il buon senso delle famiglie riuscirà a creare un miracolo, una nuova armonia, una famiglia allargata, e allora ce l'auguriamo. E allora cominciamo con i giornali di oggi. Banche, si riapre lo scontro. Enel Rubiter, Berlusconi rinviato a giudizio, l'incognita riabilitazione. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Il PD attacca su Etruria, è mancata la vigilanza, irritazione di Banca Italia. Il fondo di Maurizio Ferrera, inclusione e diritti, il reddito per dare aiuto, saluta l'ingresso dell'ingresso in vigore del REI, reddito di inclusione. Repubblica apre ovviamente su Etruria e scontro fra PD e Banca Italia, non ha vigilato il PM in audizione, spinse il patto con la Popolare di Vicenza, Via Nazionale smentisce interventi regolari e addirittura ci sono due editoriali, uno dove punta la commissione, un retroscena di Claudio Tito, l'altro il governatore dimezzato di Massimo Giannini. Ma la foto principale di Repubblica è una vignetta di Altan, la vignetta è di quelle che colpiscono, non confondiamo i nazi con i fasci, mi raccomando, e ovviamente regge il titolo: in piazza per dire no ai nazi, Salvini non è un pericolo, Maroni si smarca, fermiamoli. E ovviamente l'altro tema che domina i giornali di oggi, cioè gli echi della spedizione in Como, che noi però vi abbiamo raccontato con molta attenzione, anche se non tutti i giornali ne parlavano, beh, oggi è deflagrata. Allora, petrolio, tagli estesi al 2018, E questo è molto importante, cambierà qualcosa anche sulle nostre risorse, anche sulla pompa di benzina di via Prenestina dove vado a approvvigionarmi, perché è la più bassa che ho nei paraggi, dove ora sta a 1,40. Io spero che cali, ma forse questo accordo, l'accordo fra i produttori di petrolio, lo leggerò poi perché è un pezzo molto interessante del Sole 24 Ore, forse manterrà quel prezzo alto. Poi ditemi voi a quanto la trovate, se qualcuno trova a meno a Gallarate o a Nola, io vengo a fare benzina là. E stretta, e questa è un'altra notizia molto importante, è la seconda notizia del Sole, stretta sui crediti deteriorati, la BCE tira dritto ma apre a un rinvio. Quindi tira dritto ma apre a un rinvio, la notizia è il rinvio. La Stampa, la procura punta Banca Italia, è il titolo di apertura a tutta pagina, perché Via Nazionale sosteneva la fusione fra Etruria e Popolare di Vicenza, l'istituto nessuna pressione, Renzi non so come Visco dormirà questa notte, non so come dormirà questa notte. Il dossier che avvelena le elezioni, Marcello Sorgi dà la giusta importanza a questa vicenda, mentre il buongiorno di Mattia Feltri, fortissimamente Volo, non Bolli, è dedicato allo strappo di Fabio Volo che lascia solo per protesta Matteo Renzi mentre parla dei grandi successi del suo governo, e anche di questo leggeremo qualcosa. Viva il centrodestra che non esiste, il fondo di Cerasa è carino perché Berlusconi può vincere le elezioni solo se non le vince con Salvini, è interessante, è un bel paradosso. E poi una mucca nel corridoio di nome grasso, il nulla ideologico, culturale e politico, auguri sinceri al Presidente del Senato e Giuliano Ferrara al Fulmicotone, perché sta arrivando Grasso, la candidatura domenica verrà presentata. E che cosa accadrà a sinistra non lo so. Roma più chic, perché torna chic il superacquisto, e il titolo del Corriere dello Sport è sfida mondiale, perché ragazzi oggi si gioca il Napoli attacca la Juve campione, Mandzukic non c'è, Higuain ci prova, Mertens lo sfida, 200 paesi collegati, 8:45 a Napoli, il mondo ci guarda. Libero, siamo tutti razzisti, la sinistra fa concorrenza alla destra, l'ultima smania del PD attaccare Salvini e Co, colpevoli di non condannare l'irruzione di nazischina al centro migranti, ma gli accusatori sono peggio e gli accusati da sempre predicano odio contro chi è diverso da loro, Napolitano insegna. Mo perché Napolitano sia un predicatore di odio non lo so, Fausto Carioti però non so perché proprio Napolitano. Anche Filippo Facci fa il corsivo, ha ispirato molto, Volo e schianto su Fabio Volo, ma la foto centrale è su una donna che conta molto nella politica italiana, il bene o male, amata e odiata, qui con il dito medio, la Santanchè, perché Pietro Senaldi racconta cambia partito, il quarto in quattro elezioni. Il Messaggero, e sono riuscito a prenderlo, Etruria scontro PD Banca Italia, anche qui è l'apertura, e i fantasmi anni 20 per non eludere i temi forti, e il titolo di Campi sulla campagna al veleno innescata dalla spedizione di Como, e anche qui taglio, genitori e nonni, l'età non conta per crescere bene un bambino, la Cassazione sia l'affidamento di minori a coppie anziane. Gazzetta dello Sport, sarrismo verso marxismo, non marxismo, marxismo, come se fossero due religioni, quella di Sarri e quella di Allegri, il sarrismo e il marxismo. Avvenire, corridoi protetti, continua la campagna del quotidiano dei vescovi sulla possibilità di accesso all'Italia, ma c'è un'inchiesta che vi devo leggere, 700.000 nei carceri della Libia, mi sembra una cifra enorme, vedremo come. Ossessione fascismo, il titolo del giornale, eia eia ma va là, il Duce unisce più di Renzi, bastano quattro cretini, dice Alessandro Sallusti, per far gridare la sinistra al nuovo ventennio, ma è silenzio sulle violenze dei centri sociali. La maestra Grillina, consigliera in Sicilia, assenteista a Torino, furbetti a 5 Stelle, la foto di prima, leggeremo che caso è. Allora ci fermiamo un attimo per il meteo e torniamo subito dopo per approfondire. Curiamolo. Leviamogli il metadone. Mattino. Lei ha detto delle cose importanti, fra le quali ha annunciato come candidato premier il generale dei carabinieri Gallitelli, no? Ma hai sentito? No, ma come hai sentito? L'ha detto lei. Ma lei quale dice? Quella del generale dei carabinieri, candidato premier? Ma non è quella, come quella? Sì. Era una barzelletta. Ma come? Ma come una barzelletta? Ma lei davvero pensa che io, condannato in via definitiva, con 3 processi in corso, potessi candidare un caramba a Palazzo Pitti? Vabbè, siamo a livelli altissimi, perché ormai la battuta insegue la realtà e non sai più che cosa è vero. Però l'idea di trasformare la boutade di Berlusconi su Gallitelli in una barzelletta è cult ed è crozza. Allora, in furia subito la vostra messaggeria sulle quotazioni di gasolio e benzina. Mi sembra che finora ci sono diverse segnalazioni, per esempio Damiano da Roma è appena passato dal mio stesso distributore, addirittura non ci credo, il diesel a 1,329 sarebbe calato di 10 centesimi, mi sembra tanto, ma alla Spezia c'è uno di voi che non si firma, che mi segnala prezzo gasolio all'Enercop di La Spezia 1,35 numeri 1, e vai Enercop, per ora è la quotazione più bassa, poi ci sono altre 1,40, sì, 1,38, ma 1,35 nessuno, quindi oggi la palma del consumo del pieno intelligente è alla Spezia. Sono arrivati due giornali che non avevo letto. Il titolo: assassinio sull'Etruria Express. Tra l'altro, nel momento in cui esce una bellissima una bellissima versione di Kenneth Branagh su Assassinio sull'Oriente Express, il Fatto fa l'Etruria Express con la Boschi, Rossi e Renzi per via di questa testimonianza. E poi c'è un titolo della Verità: ci fanno votare per scherzo Maurizio Belpietro, Mattarella vuole andare alle urne senza che il governo Gentiloni si dimetta, così nel probabile caso in cui non ci sia un chiaro vincitore lo manderebbe direttamente alle Camere a farsi dare la fiducia e proseguire come se niente fosse. È la famosa prorogazio di cui parlavamo ieri, vedrete che continueremo a discuterne. Bene. Allora, della coppia dei genitori anziani che reclama biologici il suo figlio vi ho detto, e andiamo sul fascismo. Cominciamo da Sallusti, opinione distante dalla mia, ma sempre ben tagliata, dice Alessandro Sallusti. Ogni tanto, ma sempre più spesso, scatta l'allarme dell'allarme sono fascisti. Quest'estate la goliardia canaglia di un bagnino di Chioggia che aveva tappezzato il suo lido con frasi mussoliniane era stata spacciata come l'inizio di un nuovo ventennio. Il malcapitato ha perso il lavoro e si è riciclato come opinionista di Amaspettacolo Destrorso nelle radio e nelle TV venete, dopo essere stato completamente scagionato dai magistrati, vero, che avevano aperto un'inchiesta. Nessun tentativo di ricostituire il partito fascista, hanno concluso saggi PM, ma solo una gigantesca burla. Adesso ci risiamo con la storia dei quattro ragazzotti di destra che hanno fatto irruzione in un circolo pacifista ai Como per leggere presenti un comunicato sulla patria minacciata dagli immigrati. Deplorevole la violazione del domicilio privato, ridicolo il gesto, a tratti delirante il testo, ma comunque fatto anche questo ascrivibile più all'idiozia giovanile che alla fascistizzazione dell'Italia. Volete il parere opposto? Questa è la rassegna stampa dell'opposto parere e parare. E allora, su Repubblica, Ezio Mauro, la metamorfosi dei fascisti, un editoriale, gira a pagina 47, per chi vuole seguirlo con me, magari ha una bella copia digitale o cartacea già fra le mani, e io non trovo pagina 47, andiamo bene. E dicevo, Ezio Mauro è praticamente un fogliettone della pagina dei commenti. Non c'è bisogno di pensare a un impossibile ritorno del fascismo organizzato sulla scena politica italiana per preoccuparsi oggi. Basta chiedersi quanto fascismo disorganico, sciolto, quasi naturale è già tornato a circolare nelle vene della nostra società. Proprio il fatto che sia veicolato dalle notizie di cronaca spicciola dimostra che è tornato senza una linea di pensiero teorico che lo indichi e lo definisca. Anzi, non abbiamo bisogno del palazzo perché si muove sotto la linea d'ombra della politica ufficiale, con blitz situazionisti che testimoniano quasi fisicamente la radicalità di un'alternativa che non ha uguali, perché viene non da un altro schieramento, non da un altro mondo, ma da qualcuno che considera sepolto nella storia, che consideriamo sepolto nella storia, mentre improvvisamente ritrova un mercato più sociale che elettorale. Quindi sono due pareri opposti, vedete, Sallusti minimizza, Mauro drammatizza, e l'opposto modo di vedere le cose fa destra e sinistra su un episodio di cronaca, con il corredo di accuse, addirittura di critiche sul fatto l'hai criticato abbastanza oppure no. Allora, Repubblica tiene questa linea del suo direttore storico, Carmelo Lopapa, a pagina 6, nazi, Lega divisa, sinistra in piazza, Salvini glissa, Maroni duro, Renzi, fatti vergognosi, Meloni, intimidazione ma non violenza, denunciati 4 squadristi. L'intervista però di Maroni è quella che spiazza gli schieramenti, quindi ci interessa perché è un governatore di destra che drammatizza. Roberto Maroni, Andrea Montanari, Milano, pagina 7 Repubblica. Lei che è governatore leghista della Lombardia, non pensa che il centrodestra abbia sottovalutato il blitz di Como? Certamente sì. Fatti come questi non sono atti di violenza, ma forse sono ancora più gravi. Perché? Perché quanto è accaduto evoca immagini di un passato di cui francamente non ho nessuna nostalgia. Dopodiché non si è trattato di violenza fisica, ma sono fatti pericolosi, perché questo virus può contagiare i giovani che oggi sono perennemente in cerca di un centro di gravità permanente. Questo è il pericolo contro il quale non bisogna lasciare spazio a nessun tipo di copertura. Bello, no? Questi sono i giornali, sono proprio due idee radicalmente diverse, due modi di vedere le cose. Non è strumentalità, è che la politica, l'Italia è così, è divisa e questo accade. Invece l'apertura degli interni del giornale, la sinistra si ritrova unita solo con la caccia al fascista, il pezzo di Anna Maria Greco, l'irruzione degli skinhead a Como diventa l'occasione per scendere in piazza contro l'escalation razzista. E ovviamente si potrebbe raccontare molto, ma per oggi mi fermo qui. Invece voglio andare, a proposito di inchieste, quindi di cose diverse, alla pagina di Avvenire di cui vi parlavo prima. Pagina 4, è molto tempo, come se fosse una cosa stagionale, che non parliamo più di che succede in Libia. E allora Giovanni Maria Del Re, inviato ad Abidjan, Libia, i numeri dell'orrore nei campi, signori, segnate con la penna, 700.000 migranti, 700.000! È un paese, un mondo che sta alle coste dell'Italia. E non so se si travaserà. Individuati 3.800 profughi da rimpatriare subito, task, servono sanzioni ONU contro i trafficanti. Le cifre shock diffuse al vertice di Abidjan, lì ci sono donne e bambini, vivono in condizioni disumane, vogliono tutti tornare a casa. Il re del Marocco ha messo a disposizione, pensate, gli aerei per prelevarli. Ora, oggi, questa emergenza ci sembra lontana, ci sembra che non ci riguardi, ma poi basta nulla, basta che si rompa una diga e improvvisamente diventa un'emergenza italiana. La Verità, pagina 9, perché c'è un racconto dettagliatissimo di questo gustoso siparietto, non ve l'abbiamo potuto far sentire perché è più video che audio. E il renziano attacca Renzi sullo Ius Soli, Fabio Volo fa il Nanni Moretti del PD. C'è la foto di Nanni Moretti perché il precedente, ve lo ricordate, è quello di Moretti che gridava: con questa classe dirigente non vinceremo mai, lo gridava allora Rutelli e Fassino. E oggi Fabio Volo, persona indubitabilmente di sinistra e anche simpatizzante di Renzi, appunto pochi giorni fa in un camerino ha raccontato lui stesso di aver arringato Veltroni e Berlusconi sullo Ius Soli. Ebbene, Fabio Volo, durante una presentazione, ci racconta Borgonovo, a Italy, a casa del padrone di Farinetti, alla Fondazione Mirafiore, gli aveva anche a lui attaccato un chiodo e gli ha detto: ma è possibile che non riusciate a far approvare una legge che anche mio figlio di quattro anni ha capito quanto sia giusta? Così aveva detto Volo, e Renzi a quel punto risponde a modo suo, dice Borgonovo, con una punta di malcelato risentimento, e si mette ad elencare i capolavori politici del suo governo. È stato a quel momento che si è manifestata plasticamente la separazione fra il capo del PD e il suo elettorato. Gli spettatori della presentazione, circa 500, mica quattro gatti, hanno cominciato a fischiare e qualcuno gli dava basta, basta. Il nervosismo è salito alle stelle. Fabio Volo, come il Moretti del tempo che fu, come un raddomante, ha avvertito il clima, si è alzato, ha lasciato la scena, furente come una diva, dal pubblico applausi. Questo è quello che è accaduto. Sarà una fotografia di un clima elettorale intorno al leader del PD? Lo scopriremo fra poco. Allora, vi dicevo che Santanchè, la Santanchè, Daniela Santanchè, con un nuovo colpo di scena, perché lei si muove con prontezza, potrebbe cambiare partito. E ce lo racconta Pietro Senaldi, mette la sua foto a fianco a Fini, a fianco a Storace, a fianco a Berlusconi, e ci racconta: l'onorevole Santanchè, Libero, pagina 7, comunque vada, puoi scommetterci, lei cadrà sui tacchi a spillo. Improvvidamente, forse assecondando un inconscio desiderio, la stampa l'ha da tempo inserita fra le anime sospese del Parlamento, quel nutrito esercito tripartisan di deputati e senatori che non saranno ricandidati e vedranno la prossima legislatura da casa. Pare che siano il 50%, uno su due, degli attuali titolari di uno scranno. Rotoleranno teste eccellenti, ma non quella dell'ex passionaria azzurra, che almeno, stando alle indiscrezioni di Palazzo, è già pronta a cambiare partito e passare dalla parte della Meloni. Sì, capisco la cattiveria di Senaldi, però è anche vera un'altra cosa. Cioè, se la Santanchè cambia, è possibile anche che lo faccia per le sue convinzioni politiche, no? Ci fermiamo, strade, e torniamo subito dopo con Moni e la mitragliata. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Siete la generazione dei tre niente, ma attenzione! Qualcuno segnala a Rovigo un distributore di gasolio a 1,31. Voglio la foto a 1,31, dice il nostro ascoltatore, è un distributore indipendente, però 1,31 è una quotazione pazzesca, bisogna tutti convergere su Rovigo. Fate i conti se conviene, perché io dico sempre, se risparmi 10 centesimi per litro, con 10 litri sono un euro e con un pieno sono quasi 20 euro, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Allora, vi ho letto tutti i titoli di tutti i quotidiani italiani su questa benedetta storia di Etruria. Che cosa è successo? E sul fatto, Meletti, pagina 4, assist a Renzi su Etruria, il PM attacca Banca Italia. Show di Rossi in commissione banca, errore l'idea di una fusione con Vicenza. Ma ecco l'attacco che già spiega tutto. Per diramare il bollettino della vittoria, le fonti del Nazareno vicino al segretario del PD Matteo Renzi non aspettano neanche la fine dell'audizione di Roberto Rossi. Anche su Etruria sta emergendo una responsabilità di Banca Italia come già sulle Venete. Quello che sta uscendo ha dell'incredibile e dell'inenarrabile. Il procuratore della Repubblica di Arezzo, però, già consulente del governo Renzi, scrive Meletti, ha abilmente portato la commissione parlamentare d'inchiesta dove voleva lui, sulla responsabilità della vigilanza di Banca Italia nel crack della Banca Popolare Aretina. Allora, ecco il nodo. Rossi è un PM, sì, testimone davanti alla Commissione Banche, ma era stato già attaccato perché contemporaneamente consulente di Palazzo Chigi. Dopodiché questa testimonianza si inserisce in una guerra in cui da una parte c'è il PD e dall'altra c'è la Banca d'Italia. Non sappiamo chi la vincerà, però è un conflitto istituzionale, economico senza precedenti. Allora andiamo al Sole per leggere quello che vi ho detto. Petrolio, tagli estesi al 2018, il grande accordo che influisce anche sul distributore di Rovigo. È raccontato benissimo da Sissi Bellomo a pagina 2 del Sole 24 Ore, ma anche con uno scenario di Davide Tabarelli, che ripercorre la storia di questi accordi e ci spiega sostanzialmente che c'è uno sforzo enorme dei paesi produttori che stanno cercando di tagliare la produzione per tenere alto il prezzo. In che dimensioni? E eccolo qui, prevede questo accordo che la produzione rimanga, scrive Davide Tabarelli sul Sole, sotto 1-2 milioni di barili al giorno rispetto al picco dell'ottobre 2016, vale a dire 32 milioni di barili. Avete capito che sforzo sovrumano? È uno sforzo di quelli che cercano di governare in qualche modo, in un mondo disperato, la grande economia degli idrocarburi, che è ancora quella fondamentale in questo paese. In questo paese e in questo pianeta, verrebbe da aggiungere. Allora, vi dicevo una cosa molto interessante: stanno emettendo i Matusalem Bond. Lo scopro anche qui dal Sole. Il Matusalem Bond, che sarebbe, è un bond a 40 anni, cioè dice su quali scommesse il mercato prevede che si possano investire dei soldi a 40 anni. Ebbene, il mercato risponde positivamente, scommette ovviamente sui grandi dinosauri, immaginando il 2057, ce lo racconta Andrea Franceschi sul Sole, ed esce fuori che Alibaba, secondo molti investitori che stanno comprando questi bonus, la grande rete del commercio online dall'estremo oriente, è ancora un investimento appetibile nel 2057. Siamo tutti Filippo, Repubblica. Chi è Filippo? È un signore, un dipendente dell'IKEA che si è ammalato, ha avuto un infarto e doveva presentare dei certificati. Non si capisce se li ha presentati in tempo o no, l'azienda dice di no, però è stato licenziato all'IKEA della Nanina. Allora tutti i suoi compagni sono andati in sciopero con la maglietta "Siamo tutti Filippo", e il problema è capire: ma è possibile che all'IKEA in tutti contemporaneamente stanno accadendo queste vicende, la madre eccetera, oppure è bastato che se ne raccontasse una e sono arrivate tutte le altre? Sta di fatto che è sempre Italia-Svezia. E c'era un'altra cosa molto importante dal Sole, rinviata quella decisione sui crediti deteriorati, non si sa per quanto, però intanto è rinviata. Il Sole, pagina 3, la BCE rinvia la stretta, Francoforte conferma le svalutazioni automatiche sui crediti in sofferenza ma posticipa l'avvio. Chi vuole legga il pezzo di Luca Davi sul Sole a pagina 3, ma è una grande salvezza. Mitragliata, ne abbiamo tante. Allora, insegna a Torino ma vuole fare la consigliere a Catania, e allora prende l'aspettativa a scuola. Libero, pagina 4, e il giornale è una consigliera del Movimento 5 Stelle. A cittadina, decidi o di qua o di là, non è che puoi lasciare gli studenti appesi. E una falsa avvocatessa ha bidonato Susanna Chiesa, ha bidonato Fedez. Non aveva neanche il titolo, parcelle salate, e addirittura si è fatta regolare una collana di perle. Un genio! Il caffè Toto Bar a Piazza San Marco, storico caffè, abbandona metà dei locali perché gli avevano raddoppiato l'affitto. Ma quant'era l'affitto? 50.000 euro al mese per un locale a Piazza San Marco! Repubblica, pagina 31, sospeso dal lavoro. Eccolo, fannullone, no, lavorava troppo, ma sono cose da pazzi. Bene alla moglie in testa, tutti beni alla moglie per eludere il fisco. Lei se ne va con un altro, fantastico. Libera, pagina 15. Allora, le quotazioni del Sole sono molto importanti. Le semine in Nord America fanno precipitare al minimo storico il valore del grano in America, sale il prezzo del grano europeo. Ale, infine, l'ultima cosa, la patata da 1000 euro al chilo. Non ci crederete? Sì, c'è a Noirmoutier in Francia, la patata buonanotte, se la volete, è il delirio degli chef. Costa 1000 euro al chilo. Mi dà un chilo di patate? Cani e gatti, fra poco.